10, c'è qualcuno in ascolto? Ed è tutto per questa edizione? Q10, c'è qualcuno in ascolto? Hola, CQ10, c'è qualcuno in ascolto? CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Va, di Tattarino, buonasera. Ciao, già, buonasera. E allora, chi te se va a tende? Dimmi che fritta ci fanno la barba io. Mi stavo facendo bello. Ma tu sei già bello, come fai a farti tornare bello? Assistina. Sì, bello non sono, ma... c'ho un po' di fascino. Sì, quando mi dici così ti temo già. Oggi mi ha fatto un pranzo mia moglie, guarda, una cosa fantastica. Non me lo potevi dire, sarei venuto anche a mangiare, che lo so. Non lo sapevo, se no ti chiamavo. Se sai cosa mi ha fatto. E cos'è che ti ha fatto? Paragola del biglietti, no? Sicuramente è quello che mi sta prendendo per la gola questa santa donna. Mi ha fatto, cazzo, questo pranzo. E che cosa c'era di buono? Il primo brodino di mammo. Brodo di quello vegetale oppure di quello animale? Vegetale, brodo di mammo. E anche quello è buono. Io la sera mi faccio la minestra di dadi qualche volta quando c'è freddo, che ti scaldo. E l'abbiamo fatto anche per essere leggeri, sempre gosu, garri, i dadi, invece no, brodo. E catta, allora è meglio che lo sia venuto. Oh, già mi piace. Io qua mio padre ci faceva a porco col brodo, ci metteva il pane, lo faceva seccare apposta, lo faceva a fettine e ce lo metteva in mezzo con un bel di formaggio, si mangiava a buco, lo buriasso, poi si mangiava tanto di riso crudo. E i gusti sono gusti, vuol dire a lui gli piaceva. È buono con il pane così, io già l'ho mangiato, è buono, è buono. E poi fa bene perché ti riscalda. Adesso ci vorrebbe, fra poco domenica cambia di nuovo il tempo, dice che ci sarà neve anche in basso rilievi. E allora si fa freddo, roba gaglia. Ma infatti, polenta, io quest'anno polenta non ne ho fatto nulla. Perché stiamo trovando molti animali nella pasta, noi stiamo comprando solo pasta fresca da stare lì, perché abbiamo trovato per più volte quegli animaletti, meno male che le passa Elena, le mette in un piatto bianco per vedere, dice se non ti rimani mania, se non ti rimani di mania la cosa di grillo, la farina di grillo, diciamo mania di mamma Uzi di Rabbassa. Beh, usai, ma dai lo spin, le hanno trovate dai lo spin questa minestra con gli animaletti dentro. Io non ci sono più andato dalla volta. No, io l'ho trovato dall'altra parte, in realtà lì, dove vado io, già lo sai. L'ho trovata lì, gliel'ho detto, e ha detto che la ritiravano tutta, gliel'ho portata, anzi prima un po' ce l'ho buttata, qualche cosa l'ho data a Tyson, quello che mangia lui, le pennette l'ho data a Tyson, però la minestrina, tutta quella roba ce l'ho tutta buttata. Ma tu vuol dire che mira da un bel di tempo si ritrova a formare gli animaletti dentro. No, dice che fioriscono in primavera questi animali, fioriscono all'interno della pasta. Infatti ieri non vuole più pasta di quella secca, vuole solo ravioli, gnocchetti, di quelli freschi, capito? Non ne vuole più di quella, perché ha paura che ci siano gli animali. Da voi si va gli gnocchetti, la sera è giubilato gli gnocchetti, ho fatto questo sugo con ragù, ho fatto gli gnocchetti che venivano da ricatti di Didi, ma si è buca contro una davanti agli altri, a uno, vedeci vera l'animale. E ormai è schifata. Se la controlla sempre. Già è vero, già. Le hanno trovata da Eurospin questa cosa, tu magari l'hai presa da un'altra parte e c'era lo stesso. Eia. Poi stavo leggendo, tu dici che non è vero, dice che Eurospin, poi di non di tali cose, come si chiama? Quell'altro che c'è al quadrato, quello lì, Conad e altri supermercati venderanno la roba con la farina di grillo. Di stare molto attenti perché la mettono in lingua praticamente in latino per non capirlo. Ma state attenti e non andarvi in chili, ma se eliminarli e pigliare solo roba italiana. Poi lo sai che cosa ho letto? Che praticamente noi mangiamo gli yogurt, sennò quelli alla fragola e tutta quella roba lì, mangiamo i cioccolati Ferrero, che non abbiamo mai mangiato i cioccolati Ferrero, i Duplo, i Tronchi, tutti quelli lì. C'è la cucinilla in mezzo ed è da tanto che ce la mettono e noi non sapevamo nulla. Sempre che sia vero ciò che scrivono, però mi sa di sì, mi sa che è vero. Se non lo sai la mangia, una volta mi hanno fatto mangiare un riso di marcia, io non sapevo che era un riso di marcia, me l'ho mangiato, era pure buono, però se l'avessi saputo non l'avrei mangiato. E poi quello è pericoloso, che ti blocca la vescica. L'ho rivelato tre, praticamente a caccia, e praticamente la ributta la sirina tutta la Lutti, proprio per quel motivo che hai detto tu. Dice che basta che li sirineggi e la carne si praticamente si frolla ed esce buono, capito? Poi i rumori in mezzo ai brachi, li bruci tutti i pini e lo gratti, come ti sei fatto con un buco? Io lo so, però è pericoloso a chi ti può bloccare la vescica. È pericoloso l'uricidio. Io l'ho mangiato, ho fatto uno spiedo ed era un bel buono. Quando ho chiesto che carne era, ha detto selvaggina, selvaggina, cazzo. E io, che tipo di selvaggina è? Tu mai ne ha fatto di selvaggina, l'ho preso lui e sono praticamente uccelli acquatici, ma sono buoni. Hanno fatto maniaca, si è mangiato le coscette e tutto quanto, e poi dopo me l'hanno detto. Già lo so, è selvaggina era infatti. Non è che non svaginano. Ma ti parlo di tanto tempo fa, tanto tempo fa. E niente, non avrei mangiato se l'avessi saputo, perché io sono chizziloso, certe cose non le mangio. Cioè chizziloso, io mangio di tutto, però roba commestibile. Infatti. Ha sempre combattuto. O almeno roba che io ritengo sia commestibile. Perché magari commestibile c'è commestibile, vedete in maniera iata, chissà che l'avevo fatta mangiare, la iata selvatica però, presa a caccia. Sì, quelli grigi grandi sono quelli selvatici. No, ma mio padre mi ha raccontato che a tempo di guerra li sparavano i gatti, che erano delle invisioni, quando vedeva qualche gatto lo sparavano e se lo mangiavano. E mia nonna che abitava a casa, allora, che schifo, mamma mia, mio padre mi ha fatto lo scherzo, cazzo, si è fatto dare un gatto da uno che ce ne aveva, si era fatto dare un gatto già macellato senza gambe, e ha detto che ci avevano i conigli e si stavano morsicando la testa, mi tagliavano la testa, capito? Quindi ha fatto il forno, mamma mi ha avuto un po' un presentimento strano, mia madre, e non ha toccato. Nonna si era mangiato quasi tutto, fatta che buono questo coniglio, e vabbè sono di quelli selvatici, di quelli che sono allevati, ma non con mangimi, con roba tipo erba, roba del genere, per quello sono buoni. Dopo che si era mangiato tutto, l'ha fatto miau, cazzo, è stato un mese che non lo va a bidare. Rabbia, queste sono le cose che oggi a conigli rubati mi passa l'aula. Si aveva inventato che avevano questa malattia, che ci mordevano la testa, si facevano il sangue, allora gli tagliavano la testa e li mangiavano, perché la testa era morsicata, quindi la tagliavano. E mia nonna, che buono, proprio saporito questo coniglio. E mio padre la vita ha fatto noi pure l'abbiamo fatto da zia Iole e tutti si erano rimagnati senza sapere che era iatta, invece era iatta pure. L'abbiamo fatto mia pure noi che andavamo finiti di mangiare. E invece io a una persona gli ho fatto uno scherzo. I testicoli piccoli li faccio per uno schifo, quelli che si fanno imparati, sono memori, balizzai bit. E praticamente avevo fatto una rostita e mi sono fatto dare anche dei testicoli e li ho messi in mezzo. Quando proprio questa persona ce l'aveva in bocca, ho detto, non sai che cosa sono quelli lì, testicoli, Dio me lo butta, non li butta lui. No, glielo dovevi dire quando se li aveva già mangiati. Non ci rispecchia. Capito. Non è una giustizia. Dalle a me a vedere se non rimanio. Se no a Taiso mi pongo i biazzi, ne arrosto, ne faccio arrosto a Taiso, lo sai quanto li biazzi, i testicoli, ma non li trovi sempre in Natalia, è quello, è. Se li prendi interi te li fanno a 3,50 il chilo, se li prendi invece a fettine li vogliono 6,90. E io me li prendo sempre interi, me li faccio a fettine, io li preparo a lui, no, io non ne mangio, ma li do a lui, qualche volta ne gusto qualche pezzo quando li faccio arrosto, capito? Ho capito. No, tanto qui dai, se li mangia un bel, e quelli lì, sia quelli sia il reme, mangia, anche il fegato qualche pezzo glielo do, carne di maiale, carne di cavallo. Vai che su gana c'è padura medica. Ci sono. Lo so Natali, ma me adesso non sta mangiando nulla perché ci sono delle femmine in calore sotto da noi, dove nella piazza portano questi cani in calore e sta sempre mugugnando, all'interno, sempre mugugnendo, bufaraggiosa fiaga e non mangia nulla. Poi la sera magari si sente che ha fame e assaggia qualche pezzo di carne, però la pasta la lascia. Perché vuole fare, capito? E ha voglia di fare, quindi non sentimi. Cazzo, vinta, pari gusto, sì, fa dietro, meno, ma a te. Quando ci sono cani in calore lo fa, quando vuole scendere che magari deve fare qualche cosa, però adesso perché ci sono le cani in calore lo capisco, vuole scendere per fiaggare. E siccome se ci sono giù le padrone subito dicono, no, non ti avvicinare già che sono in calore, mamma mia, sennò uia. E lui vuole andare, ti tira, cagato dira, qua c'è spaccare. Non mi ha rotto il moschettone una volta, anzi due volte me l'ha rotto. A te mi stanno telefonando già. Io. Attenzione, canale 10, cambio basso. Sono tornato. Tornato. KK. Aspetta che cambia parecchio la tariffa. Dammi un attimino di tempo. Eia, andrà bene meda. Tattarino! Oia! Eccomi qua! Adesso sto uscendo con l'altro. Ma lo sai che non si può andare a pescare se non ha più quel tesserino? Che ci sono 1.000 euro di verbale! Già lo so Rattari, infatti te lo volevo dire, lo sai, l'altra sera quando io l'ho letterato portando se te l'avrei mandato. Sì, l'ho sentito anche io. È obbligatorio rinnovarlo ogni anno, addirittura. No, io già me l'ho fatto. Perché ci vuole lo speed adesso per entrare, se no non ti fanno entrare. Vabbè, io non posso manco stamparmelo, qua non c'ho stampante, lo so forse. Se è lo speed te lo stampo io. Non lo prendo lo speed. Tu lo vai, a ogni cosa, se devi entrare all'Inps, se devi lo speed. Se devi andare in qualche esercizio ci vuole lo speed adesso. Va bene anche la carta d'identità. Quella elettronica, ma bisogna avere il lettore della carta d'identità. Se non hai il lettore te la attacchi al QSO. Vabbè. Ma allora prima quella lì era una cosa formale. Praticamente lo facevano solo per vedere quanta gente andava a pescare, che tipo di pesca faceva, lo facevano delle statistiche. Adesso non è più formale, adesso proprio se ti trovano ti mettono la multa. 1.000 euro ci sono. Ragazzato, ogni tanto ne diventa di una, ma io vado alla capitale di Amorbo Silva. E ce lo fanno, sì. Guarda te, abbiamo visto la rabbia. Sì, me l'hanno fatto quasi sempre loro a me. Una volta solo io l'ho fatto a me, a te, te lo ricordi a casa, la prima volta, poi l'ho fatto sempre in capitaneria, quando andavo a scaricare la pedana dell'acqua, li portavo quello vecchio e mi facevano quello nuovo. E vuole rinnovato ogni anno. Prima era così, si rinnovava. No, prima bisognava rinnovare lo stesso da dicembre a dicembre era. Poi avevano dato una proroga perché sono andato a rinnovare, mi hanno detto no, c'è una proroga perché hanno sbagliato la data. Su internet loro hanno sbagliato la data, invece di mettere quella di quest'anno hanno messo quella dell'anno scorso, quindi dobbiamo aspettare che correggano questa data qua. Infatti c'è l'affare che lo devi attivare e tutto, ma dimmi tu, non è facile neanche a farlo. E io l'ho fatto di scioltezza l'altra volta, l'ho fatto io, l'ho fatto anche a te, te lo ricordi? Ehi, poi me lo facevo sempre io, però a giudizio, sono entrato e non è tanto facile, non è facile come prima, no? E che domande ti fanno? No, c'è da fare vari passaggi, se no i passaggi sono un bel. Prima ti chiedevo che tipo di pesca facevi, io avevo messo due o tre tipi, dai. Così almeno potevo fare tutti i tipi dalla barca, eccetera, eccetera. E poi niente, l'avevo compilato e niente, e me l'ha stampato. Quando c'avevo la stampante e l'altro computer lo stampavo. Ci vuole lo speed, perché se io metto lo speed mette sempre il codice fiscale mio, capito? Ma lo speed va bene anche quello della tessera sanitaria. No. Ci vuole proprio lo speed, è un metodo per entrare. La tessera sanitaria non va bene, perché ci vuole sempre il lettore per leggerla, se no come fa il computer a leggerla? Ho capito, ma tu come hai fatto a fare lo speed? Io me la sono fatta alle poste. Ah, ce lo fanno alle poste? Eia. Vabbè. E io tanto ci andrò poco a pescare, se vuoi vado di notte, capi bene. Ma uno che ha già fatto, che deve solo rinnovarlo, Natali, non penso che ci voglia lo speed è per chi lo fa la prima volta, però se uno l'ha già fatto, risalgono al tuo nome, perché io l'ho fatto così, io l'ho dato il mio nome e loro sono risaliti. No, non funziona così, non si fanno neanche accedere, è per accedere al sito che ci vuole lo speed. Non si fanno fare il login. Vabbè, la capitaneria ci avrà quello suo, lo speed entra con lo speed della capitaneria e te lo fa. Infatti. E gli uffici sono aperti sino alle 11, capitaneria, ma sono lì che si fanno, non è che sono io. Ma dimmi tu. Unico amore della sua vita. Medi brittesi. Ho un pezzo di bambino, cazzo, ti buonano 1.000 euro di multa, mai io. A che punto siamo arrivati? Perché fanno la cerdita, Natali, capito? Fanno la cerdita per vedere quanta gente va a pescare. Ma poi non c'è più nulla. Infatti, non è che convenga molto. Mi immagino che vendo tutto, tanto non ci vado più, cosa ci vado a fare? Io mi ero messo in testa che quando me ne andavo in pensione me ne andavo a pescare tutti i giorni, invece è un casino, dai. Da una cosa all'altra, adesso sono tutto a dolori, tutto il corpo, c'è dolore alle dita, dolore al collo, cazzo. Guarda, non una cosa all'altra. E io lo stesso. Meno male sono riuscito a anticipare quell'affare dell'ecografia al collo che devo fare. Al collo? No, al collo, per la tiroide. Perché cosa c'è? Sospetti di tiroide? Mi hanno fatto questa ecografia, ho fatto questo eco Doppler. Mi hanno trovato dei noduli, le cose, e devo andare lì a vacca. Me l'avevano prenotato il 21 agosto ad Alghero. Beh, sono riuscito a farlo per il 2 marzo a Platamona. E cosa ti hanno detto? Lo devo fare, no? Il marzo, non ci stavo pensando. Vabbè. Speriamo che non sia un'ora che sia qualche fesseria, magari sono crescenze di carne, di coso. A Marco l'avevano operato lì perché pensavano che fosse un tumore, invece grazie a Dio era solo, era una, un tumore benigno, poi era meglio asportare, perché dice che tu quando sono giovane, crescendo li può crescere e diventare maligno, capito? Quindi ha detto, una volta tolto, dice io mi posso ammalare, dottore, lui non si può più ammalare perché l'abbiamo tolto. Il microfono è una merda. Non ho sentito niente, per esempio la porta intervista, ma niente in radio. Guarda, adesso lo scemo sto. E io. Ho detto che questa dottoressa si è preso la responsabilità, ce l'ha fatta togliere di tutto, perché gli altri medici dell'equipe gliene volevano togliere la metà. E questa dottoressa io lo volevo come se fosse mio figlio, aveva la stessa età di mio figlio. Per cui mi ho preso la responsabilità e ho detto no, gliela togliamo tutta, perché se poi quella metà che gli lasciamo, che poi non servirà niente, metà solo, che gli lasciamo, si diciamo ricresce e poi perché non vorrei aprirlo. Infatti. Ma non ha sofferto niente, così noi siamo stati lì sino a quando l'hanno tutto fuori dalla sala operativa e tutto quanto, ma non ha sofferto niente. Meglio così. Sulla Palletto Minibudia li hanno operato così, ma lotta lì. Ci siamo cagati sotto perché ci hanno detto che c'era un modulo, non si sapeva se era marino o benigno, cazzo. Sì, infatti adesso mi fanno questa ecografia qua. Sì, vabbè, anche praticamente anche se da tu gli era quasi un grave, basta. Ti prendo la pastiglia, ti voglio giù alla tua collezione. Già fare la buccia di spesa che andando in farmacia, mia moglie a pigliare i medicini. E anche io no. Quando prendo praticamente tutto il materiale, una busta piena, da buoni medicini, ma carità. Ma per carità veramente. E purtroppo sono medicine salvavita, purtroppo li devi prendere, lo devi fare. A me quando è venuta la dottoressa a visitarmi perché c'avevo tachicardia, mi ha detto, ti ricordo una cosa, di non dimenticare mai la pastiglia, ogni giorno la devo prendere. Sì, infatti, quello non si scherza. Quello sono salvavita, capito? Perché io soffrivo di tachicardia, poi dopo che ho preso la pastiglia non me ne è più venuta. Ma che bello di coricarmi e sentirmi il cuore nell'orecchio, tum, tum, tum, tum, ah. L'occhio è così. Cazzo giorno noi vi siamo, non ho entrato nessuno. Presto Natali, sono, ce ne sono 5 e mezza. Presto. Io ho acceso l'usi per lavorare se c'era qualcuno, mi ho sentito a te chiamando. Ho acceso, che mi sono fatto la barba, adesso vado, mi sdraio 5 minuti e mi lascio del baracchino a vedere se c'è qualcuno. E ho sentito a te facendo la chiamata, vedi? È capitato così proprio di ganna, se no magari non ti sentivo e chiudevo. Infatti. Oh signore, ma che vuoi che ti dica? Sì, sei la madre di Michael Alessandri. Io lo stesso ho acceso questo qui, ma a chi si non sempre chiudato, non andava bene. Kappa kappa. Vabbè, adesso ti senti più tranquillo che c'hai il problema risolto, almeno hai risolto questo problema di chi si rompi scatole. Oh, yeah. Io rompi scatole solo, rischiavo anche che mi si troncava l'antenna, perché me l'ha sciolta lui per dispetto. È dispettoso. Come te l'ha sciolta? Mi l'ha sciolta, da un dire arriato, ne l'ha cavato il rulegaccio. Ah, però poi si è sciolta che l'avesse bruciata. Ha giudito. Ecco lui è pericoloso, perché se ti ingaggi l'antenna è qui pasuglia. Ragazza, è da dito che era il vento mi ha tirato il rulegaccio. Il vento ha la posto legale l'antenna, non penso, no. Ma cosa? Io l'ho tenuta a 12 anni, legata con l'unico che riuscirà a spendere, cavolo, non si sono mai insulti. Basta che mi fai nudi, io non gli ho fatto un bel, non ne ho fatto uno solo, ne ho fatto un bel, uno sull'altro, in modo che se si sciogli uno quell'altro, se non mi aggiungo alla fine, gli ho messo il morsetto per non aprirsi. Ma poi lui l'ha fatto in modo che ci troncava l'antenna per non disturbarlo, non ha capito. Perché lui l'antenna non ne voleva cambiare, che non può salire sul tetto, no? E vabbè, e non ti darà i soldi del partitore? Gli ho preso 20 metri di cavo e il partitore non mi ha detto manco grazie, già. E vabbè, l'interessante è che ti ho avuto un problema tu a Parigi, tu vuoi modulare la cambio di Biasi, prima non lo potevi fare, adesso se vuoi entrare di notte puoi entrare, vuoi entrare di sera puoi entrare, è una cosa diversa, dai. E infatti. La libertà non è mai pagata. Andrianino Ramara ha rivinto 2 euro, cosa me ne fotti? Non mi hanno fatto né ricco né povero. E posso entrare a parlare quando mi pare piace. E oltretutto se vuoi fare rispettoso mi stacchi il filo. E allora, se non gli voglio far vedere la televisione, un giorno prenderglielo stacco. Quando ci sono le partite proprio. Mamma mia, non mi vuoi ripetere. Giuseppe, cosa vuoi che ti dica? Neanche qua si vede. Via. C'è un rubato di petto, Giuditta. Se si era buttato pure in un interrogatorio, ogni tanto ve l'avevo fatto. E dopo per rompere un barilone, dice, no, mi sta disturbando di nuovo, bisogna che lo tu, mi sto baracchino. Ma fa venire a casa tua a vedere se è acceso, ti dico. Via. Vabbè, l'interessante è che è risolto, adesso è stabile le luci. Ci guardi il televisore, la roba le scatole, cosa devi fare? E purtroppo è così, è così. Cioè, non puoi farci nulla, Natali. E cosa vuoi? L'ho attaccato al palo dell'antenna mio, qui di fuori dalla finestra. E mi ho fatto calare il cavo, gli ho dato 20 metri di cavo, così mi l'ha giù fatta a misura, ma giù gli ha dato 20 metri e quasi mi sono voluti. Ha fatto delle ammissioni riguardo. Così. Vabbè, l'interessante è che adesso ci veda, che sia tranquillo, non lo fare scattare agli altri, cazzo. E dove c'è una rottura di palle, due volte che si è parlato e verrà a rompere. Ah vai, contento che picciri, chi non lo dice in nessuno e vedi me tutti i ricamari. A chi va via l'antenna pratica, Edo. Io dico, ma con tutti i ricamari non li vidi a mezzo. E non è venuto uno, il figlio di uno che abita qua, con lui ci barrabbi. Che gli stava entrando al telefono, che non poteva fare la telefonata perché gli stava entrando, ho detto qual è il problema? Perché tu sei parlato a no, veramente il baracchino aspetta, vieni dentro te lo faccio vedere, il baracchino l'ho bucato, fatti un gotto, e lui dice che ero io, capito? Ehi, la minima cosa che succede, pensano che sei tu, se me ne è uscito a me, che lui la televisione la vedeva bene, che io l'antenna l'ho messa dopo, l'ho messa, compreso, e poi sono io più cavati, l'avevo buttata poi dentro, e dopo da 40 anni che si antenna, cazzo, ci sono le mie mogliere ne farà dentro e si è fatta i mille bezzi, ma che si è praticato pure rubare, ha bisogno io. Ehi, perché non è puttanere più di tanto, così aveva fatto quella che c'era qua quando lo disturbavo io, che c'erano saliti col tecnico, come te l'ha bucata se farà da. Dicendo, no, io faccio verbale subito e scrivo che l'antenna da cambiare, non è lei che disturba, l'ho fatto venire qua, l'ho fatto vedere che stavo uscendo con 5 watt, con 5 watt non può disturbare assolutamente, l'ho fatto vedere il rosmetro, cazzo, che stavo uscendo con 5 watt, e vabbè. E comunque lui ha fatto il verbale, ha scritto che era cambiare l'antenna e praticamente qualcuno ha detto che praticamente l'antenna l'ho troncata io per cambiarla, capito? Era pratica, cosa hai educato tu? Guarda, quella di mia moglie si è troncato il palo perché era marcio, per poco mi becca a me, io me ne sono accorto dal rumore, no? Che ha fatto quando, e mi sono spostato, se no mi beccava in pieno, si è fatta in mille pezzi quando è caduta giù in strada. se prendeva qualcuno guai. Lo so, è una cosa pericolosa, specialmente se hai un cabagachidù. Ma infatti dopo un po' di anni vogliono cambiare quelle antenne, non è che puoi lasciarle in eterno, no? Chiedo via loro, figurati le antenne. Se tu pensa, la mia antenna TV non è neanche su questo palazzo, è nel palazzo a fianco, perché io non ci potevo salire sul tetto. Quando sono venuto qua c'era un'antenna di quelle a spina di pesce, fuori dalla finestra, e non vedevi tutti i canali come li vedo adesso. Io sono andato a Fusaro, ho comprato le antenne per il digitale terrestre, sono nuove le mie, e sono nel palo di uno che abita nel palazzo a fianco. Io gli ho dato l'amplificatore e le antenne già piazzate, lui me le ha messe in punta al palo suo, e sto vedendo la televisione così io. A tali concorsi esistono quelle antenne che metti dentro casa, amplificate, e ti fanno vedere tutti i canali perfettamente. Sono quelle che si attaccano al muro e non rompono le scatole a nessuno. Se proprio hai problemi di salire sul tetto, metti quella lì e fate il gioco. Ma io non ci credo, non penso che funzioni, ma no. Sono di gente che l'ha presa e che si è trovata bene, che prende bene, anche quello dell'agenzia funebre che c'è sotto, non gli hanno voluto far mettere il cavo del palazzo, l'antenna centralizzata, e si è preso quello, vede tutti i canali. Ma che vuoi che ti dica? Ma bene però, perché non mi stavo con il visore, si vede bene bene, perché non c'è il rischio nulla. Ah, col digitale poi o vedi o non vedi nulla. Se non arriva il segnale non vedi nulla. Non ne fa nel rischio come prima, no? Col digitale o la vedi o non la vedi. Sì, sì, io l'ho visto, l'ha messo questa antenna qua e addirittura prende Sky, prende tutto quanto. Figurati. E adesso non pagherò più, con questa antenna qua non pagherò più l'abbonamento. Infatti, perché sono interne. Sì, sì, infatti io me la volevo prendere per mettermene una in camera da letto, perché non l'ho mai messo in camera da letto di televisione, perché non c'ho attacco, capito? Anzi, l'attacco ce l'ho, però è dietro il mobile, che è enorme, è attreante, non è che mi sposto il mobile per metterci, è l'attacco che avevo in camera da letto, ho fatto un buco nel muro e l'ho fatto passare per la cucina, che non l'avevo messo in cucina, anche a me non pone l'attacco del televisore in cucina, boh. Infatti. Adesso il filo è cancarato, duccio di lavalla, si cade, se. Infatti. Ma che vuoi che ti dica? Molto si sente la televisione. Già. No, meno degli altri volte, però si sente. Perché è abbassato al minimo proprio questo. Amplifica un bel buru. E questo no, come va questo qua? Benissimo. Questo qua è quello che stavo facendo, quello che ha comprato anche Marco, che mi stava facendo lo stesso difetto. L'ho aperto, soffiato e così gli ho messo lo spray per contatti. Magari poco fa non sono uscito perché ho premuto male, però se premi bene già esci. Infatti, molte volte ti si stanca il dito e non riesci a schiacciare bene. Sì, anche il dito, il pollice, l'altro giorno mi sono svegliato che mi faceva male, era tutto gonfio. Mi faceva male, come se ce l'avessi fratturato la tali. Tanto è vero che stavo per andare dal dottore, invece poi è durato due giorni e poi mi è passato. Me l'ho massaggiato, sentivo i nervi accavallati, non so se ho fatto qualche sforzo, o col telefono digitando, facendo, accavallati i nervi, cavolo, e invece è tutto gonfiato, si è infiammato. Alla faccia, come una seconda fase. Ti sto dicendo che questo inverno sto battendo la pelle dell'inferno con i dolori. Adesso il collo cosa mi entrava? Cazzo, la faccio un godo che io le diciamo qui. La spalla mi fa male, il collo mi fa male, i fianchi mi fanno male. le dita delle mani mi fanno male, c'è l'uva addirittura che va a scatto, anzi adesso si è ripreso, non va più a scatto, prima andava a scatto. E sicuramente avrai bigliato freddo e si è infiammato. E la sera per forza devo uscire col cane da lì. E per forza ci devi uscire, la sta lavorando, quindi devo andare a volta a prenderla adesso. E io devo portare un po' prima, perché prima di andare a prenderla, perché così almeno poi quando torna ce ne amo, se no devo usare frizzare i nubi, perché devo gare, è troppo freddo. E infatti. Perché lei. E ti devi dare a me, a chi si pigli freddo, cazzo di grippa. Ma poi io metto anche la sciarpa, il giubbotto, la sciarpa, tutto già saccarrato, mi metto il cappuccio del giubbotto, e più di così. Cosa va la manta? E poi sta di la manta, cosa vuoi ti dica? A me la dica la prendi tutto di soffreddo, ero con Franco e mi ha pizzicato, beh, a me e a Franco, a tutti e due ha pizzicato. Franco mi ha capitato, dici, non intendi che dove entra a capitare? Già l'ho sentito, sì, c'era la voce rauca. Ma magari c'era qualcuno che siete andati che era già influenzato, lo sai come fanno, no? C'è gente magari che ha la febbre, c'è lo stesso, se ne frega e contagia anche gli altri. E può anche essere, perché l'ultimo posto che abbiamo fatto è Decathlon, siamo andati da Decathlon e c'era un freddo che Dio lo mandava, guarda, ma freddo però, cazzo. Ha dato un po' come ti rientra a casa, ma ha pizzicato in pieno. Molto l'ha pagata quella borsa, Franco. E quale borsa? Quella che si è comprato per la pesca. Non avete preso la borsa per Franco? No, negativo. E un momento che si è cambiato la borsa, che si è comprata nuova. E se l'avrà comprata nuova, ma non ho messo nulla io. Ancora Picano, bisogna mandarli. Come ti va via, sapete lui? Per una cosa o per l'altra non siamo andati da nessuna parte. E Franco ha permesso, fatto se l'ha. No, gliel'ho detto stasera. Era lui che mi ha telefonato. Siccome io l'ho visto in internet la situazione, e allora l'ho informato. Ho fatto bene. Ma adesso mi dico a Franco, se ci mettiamo d'accordo scendiamo alla capitaneria e se lo facciamo fare alle 11 chiudono, possiamo andare in capitaneria, in ufficio te lo fanno. E infatti, a che città c'è panno di buono nei 1.000 euro di verbale, dimmi tu. English, da lì. Non la giugana, no? Sì, l'altro giorno mi hanno risposto anche, non so di dove era, non ho capito di dove era, ma parlava in inglese. Ha chiamato Sardegna, Italia, Sardegna. Io ho sentito anche la Scozia, ho sentito l'altro giorno, in banda laterale. Io in banda laterale poco ci vado, io vado qua, in banda laterale non ci frequento molto. A meno che senta che ci sia gente di splatter e cose, allora provo e vedo chi c'è, ma se no non vado a cercarle, non mi interessa. Tanto sono tutti inglesi, tedeschi, francesi ce ne sono pochi. E infatti tutti, anche i francesi, parlano in inglese quando fanno gli ex, capito? Se sono tra loro o no, che parlano solo in francese. Visori tedeschi, io ve ne poco di ieri. L'altro giorno, quando è? Un po' di tempo fa ho collegato a Chiodo Arrugginito in banda laterale, gli arrivava una schioffettata, gli arrivavo con questo, e anche lui arrivava bene, che era con la T50 qua. Solo che in AM non riesce a sentire lui, basso basso arriva. Con la T50 non lo senti bene. Cazzo, con l'850 arrivava benissimo, siamo stati un'ora parlando in banda laterale. Ma in AM no. No, in AM mi viene male a sentirlo perché arriva basso di radio, molte volte è incomprensibile. Io l'altro giorno in macchina, quando tu non lo sentivi, lo sentivo bene lì, in macchina lo sentivo. Ma qua è zona negativa per Muros. Io sono alla periferia praticamente, sono in basso, è logico che mi viene male a sentirlo. Qua arriva male proprio lui. Io ero fuori Sassari, mi natta lì, sono andato fuori Sassari, non ero in città, capito? Stavo andando a prendere l'aereo, ma quindi non ero qua. Ehi, ma magari è la zona positiva, dai, lo sentivi bene, anche io se vado in macchina magari lo sento bene, secondo dove sono. È qua che arriva male lui. Vabbè, poi c'ha gli apparecchi, c'ha quelli buoni che si sente bene, ne usa sempre tanti, che magari arrivano peggio. Non si ferma con un apparecchio, lui li vuole provare tutti, è fatto così. Ehi, già lo so, l'altro giorno, quando l'ho collegato io, era con l'8.50, ma arrivava benissimo qua. E io lo stesso, ma si è pettata proprio con questo. Scappa. Quello K. No, il K non lo sapevi che me lo stanno riallineando. Quindi le cose ti sono... Le manato fuori. No, Adriano me lo sta facendo. Ma è lungo per un mese di maggio. Peggio di Vittorio Giovine. Già lo so, l'avevo dato in gara, sì, a aggiustarmi. Solleni i reni, vendi la cosa, mamma mia. Fondamentali poi gli esiti della stessa. Cazzo, mi ho fatto il ballo per quel diplomo, mi ho fatto. È uscito, mi ha fatto anche i complimenti, gli ho mandato la fotografia a Adriano. E mi ha detto, cazzo, questo è bello professionale, sembra comprato. E tu vai la giubattivo già. E a tappeti, io non ricordo che li facevi di puri già da quelli, non adesso. Anche con Antonio Montoro li facevi, te lo ricordo. Eia, ho fatto il balum proprio dentro una cassetta stagna, no? E me l'ho piazzato pure per un dipolo, che si può fare anche l'alterna verticale con quel balum, solo che è lunga 10 metri, è multibanda. E lui si arrabbiasse. E già è già piazzato. Ha già messo là. E allora? E la dopo l'hai attaccato, per curiosità. Se lo vedi ti metti a ridere. E ho sentito anche uno da Cagliari, in 40 metri. Sì, io prendo tutto Natalie con la REM. Basta che attacchi la REM al ricevitore e prendo tutto 30, 40, 10 metri, 11 metri, tutto prendo, tutto qua. Li ho provati tutti, prendo da tutte le parti. Lo so. 14, è quello che abbiamo appena lo so. Immagini, si è ripetuto anche. Quella è buona la tenda, lo stesso. Questa 11, 10 e 12 fa. E più c'è quel dipolo che è multibanda praticamente. L'attacca la cugliatore e andiamo di voi. Mandatelo la fotografia del coso, del balu. Sì, che me l'ha mandata la talisca, me l'ha mandata. È che io il ricevitore ce l'ho piccolo, ma è una scheggia ecco, il ricevitore, è piccolino, ma pare due pacchetti di sigarette in mare, messi vicino. Però è tutto digitale, c'ha la pennina per digitare, sta screen. Lo so. Non ho sbagliato a prenderlo, vai. Adesso sto imparando a conoscere perché praticamente non c'era nessuna spiegazione, capito? Era tutto quanto scritto in giapponese, cosa era. Io non riuscivo a leggere nulla, quindi piano piano ho dovuto esplorarlo. Ho capito. Cazzo, Adriano Baghisu Balum mi ha fatto i complimenti. Cazzo, professionale, è fatto veramente bene, mi ha detto. Ti si è appintato, va. È come me che mi sono capitato l'altra volta che mi è caduta a casa l'antenna dalla macchina e mi sono capitato, ero tutto qua terrificato, vi ho lasciato la cosa perché era graffiata, la base, dopo ho perso la parte di sotto, gli ho rifatto la parte, non so con cosa gliel'ho fatta, hai visto quelle pelli nere che si usano per asciugare le macchine, l'ho fatta con quello lì, l'ho tirata bene, incollata, tirata bene, e poi tutto attorno gli ho messo il vulcanizzante per fare da guarnizione, ma sai quanti ci dare? E te credo. A me mi piace verniciare, vuoi fare verniciatore, mi piace verniciare. Vedi, l'unica cosa che non so fare, che non ho mai provato, è a verniciare. Se ti appetti lo fai bene, qua. Non devi insistere, la prima mano la devi dare leggera, lasciarla un po' asciugare, e poi la devi dare la seconda, se non diventa troppo grossa, la vernice si formano delle bolle, eccetera. E devi avere un po' di pazienza, dai. Lo fai bene, lo fai di lusso. Io ne ho verniciato di bella roba, anche a parecchi nuovi, però che magari i coperchi erano un po' danneggiati. Li ho riportati con la carta abrasiva, li ho levigati, no, carta metallica non ne uso carta abrasiva, quella che usa le carrozzine. E dopo li ho verniciati, sono usciti perfetti, sembrano nuovi, c'erano alla fabbrica. E infatti. Ma pure lui trova la chiave. Che vuoi ti dica? In una sera l'ho fatto quel ballo. E lo con buchi in chivi. I buchi li ho fatti con quei. Con quelle punte che hanno tante cose, quelli che sembrano. Conici mi sono. Ho capito. Ascolta, l'hai già provata l'antenna. E se ti sto dicendo che ho sentito uno chiamando dalla sezione di Cagliari proprio, perché il nominativo era IQ0, IQ0 Charlie Papacciarli, la sezione di Cagliari ho sentito, chiamando il Conte. Cagliari non lo dovrei sentire, quindi vuol dire che già funziona. Vabbè, certo, Cagliari è più difficile che arrivare in continente e fuori all'estero, perlomeno per la 27 così, poi se in quella frequenza dove metti 40 metri è più facile, non lo so, però è difficile collegarlo a Cagliari. Vabbè, comunque l'hai provata, quindi sei soddisfatto, ma non mi hai detto come l'hai attaccata. Fuori dalla finestra l'ho attaccata. Ho aggiunto quel dipolo dei 20 metri, ho aggiunto, e così mi ha fatto la misura per farla giusta, no? C'era già un dipolo per i 20 metri. E poi l'ha messa tipo un filo da stendere. Ehi, ho capito. È strano perché lì c'è il muro, non dovrebbe andare tanto bene, nel senso che c'è il muro davanti, e invece va bene lo stesso, meglio così. E te credo. Se non potevi fare una cosa da un palazzo all'altro, andata lì. E infatti da un palazzo all'altro, se no non c'è il posto. Ah, ecco. E l'altro palazzo hai disturbato qualcuno per attaccarlo? E Adriano me l'ha attaccato l'altro pezzo. Ah, ecco, ci abita di fronte a te. E fa, acciugava la vita. Però mi hanno bocciato. Cosa? Però mi hanno bocciato all'esame. E la taglia fotti dindi. Io non me la sarei presa più di tanto. Ma queste cose ti disgustano. Lo so, ti ha fatto il matto per studiare, certo che non è una cosa bella, ma io ci avrei ripentato. Caso strano, hanno promosso solo quelli di Porto Torres e basta. Magari hanno avuto la fortuna di. Quanti ne hanno promosso il Porto Torres? Uno solo. No, tutti. Anche Mario Sasso, che non capiva un cazzo. Tutti che si domandano, per essere esatti. È rimasto nella villa. A lui dice che gli piacevano le donne e che gli piaceva andarsene a mare invece di studiare. Ah, non si è. E lo passano a te. Ehi, infatti mi sono incazzato mentre una belva io. Sono il primo del corso io. Figurati. In pochi ne sapevano quanto ne sapevo io, eppure mani bucciate. È questione di canna. E come la patente, Natale, se ti capita la cartella giusta e rispondi bene, se ti capita quella lofia, con le domande più difficili, non riesco a rispondere, non te ne ricordi. Adesso stanno pure cercando di. A me non me ne daranno mai, io lo so. Perché ne sapevo più di loro. Inventare un po' di oramai si signorando. Ma siccome io lo so, mi hanno convinto e vai, vai, e sono andato, e beh. All'interno del. E avevi ragione io, Ravini. Più fortunato, Natalia. Ah, va. E soprattutto. Io lo volevo solo per una questione, magari non avrei fatto neanche attività, mi sarei stato qua e boh. Però per dire, mi hanno disgustato. Per avere qualche apparecchio da materiale, magari a casa, col permesso, vai. Ma al limite non avrei fatto neanche attività, non avrei parlato con i radiamatori, manco per le scatole me ne è fatta. Solo per tenere gli apparecchi, capito? Così non mi potevano rompere le scatole, il TVI, come venivano se ne andavano. Purtroppo, Natale, uscì, cosa devi fare? Mamma, adesso che ho risolto il problema del TVI, va, non ci tento neanche. Ma vai, magari questa volta ti promuovo. Ma cosa me ne faccio della patente? Risultato in dato macroscopico che risalta. Cosa me ne posso, tanto non ci parlo con loro, manco per le scatole. C'è gente che di cosa parli? C'è gente che non sa manco dove sta di casa. Ehi, vabbè, come si parla in 40 metri? 40 metri è tipo la 27, va a vedere i cuscimi, non ti credere che parlino di cose impegnative. Io già ascolto e già lo so di cosa parlano. C'è gente che è veramente preparata, ma gente che proprio lascia desiderare qua. Sì, c'è gente che si costruisce alimentatori, queste cose qua. Quello sì, però non sono tutti così, no. È come qua, c'è gente che sa parlare le lingue, gente che non sa parlare, a fare gli ex. Io puoi dire, sono il francese, l'inglese non lo so perché sono dato francese. Inglese so qualche parola, qualche cosa, però non lo so parlare. Il francese di più, anche perché i cugini di Liliana erano francesi, gli zii di Liliana erano emigrati in Francia e tutti i cugini parlavano francese. Quando venivano qua, se non li parlavi in francese non ti capivano, capito? Infatti. Quindi eri costretto a sforzarti a parlare, se no si restava in un angolino, bovacci. Perché non riuscivano con chi parlavano, con Muro. E poi già l'hanno imparato un po' l'italiano, già l'hanno imparato. Poi l'hanno imparato perché chattiamo, eccetera. Adesso la zia e gli sono morti. L'ultima volta che mi ha telefonato per dirmi che era morta la mamma, abbiamo parlato in italiano. Qualche parola in francese, qualcuno in italiano, ci siamo capiti. Attention, mon ami de la France. Attention, mon ami, c'è tutti lì della Sardegna che ti fa pelle. Don Battier, ici. Bonsoir, mon ami, bonsoir. Che fetti ce soir? Non vi pare travail? No, oggi non ho lavorato, Gianni, però ho lavorato di più perché ero a casa. Ho finito adesso di mettere a posto qua, ho la schiena a pezzi. Buonasera anche a lei, signor Natalino. Bonsoir, mon ami, come sta va? Très bien, très bien. Ho terminato adesso. E dove terminate travail? Carlo, ciao, buonasera. Sento come francese. KK, a te, anche a te ti è venuto, ma voi in aeroporto dovete saperlo parlare tutte le lingue, così è? No, noi solo l'inglese, diciamo, è la lingua più parlata, quindi, ma tanto le cose che diciamo ai passeggeri più o meno sono sempre le solite frasi, e quando magari qualcuno di loro viene a chiederti qualcosa, ti chiedono o hanno perso l'orologio, o hanno perso la carta d'imbarco, o hanno perso il documento, capito, dimenticato nelle vaschette, per cui dalla, diciamo, in base a quello che ti dicono, anche se non capisci tutto dal contesto, riesci a capire che cosa vogliono, quindi poi la risposta è sempre quella, just a moment, can I search now in the basket, e quindi vai a cercare nelle vaschette, loro aspettano e poi glielo riconsegni, capito, ti fai dire come si chiamano, perché spesso li dimenticano dentro le vaschette, capito, poi le lasciano sui tavoli in fondo, poi le vaschette vengono ritirate una sull'altra, capito, e a volte dimenticano di tutto e di più, quando dimenticano telefoni, computer, tablet, capito, le problematiche sono quelle. La parola siete già esercitati a rispondere. Natale, avanti. Just a moment, please. KK, va bene, aspettiamo. Niente, Carlo, io sono tutto a dolori, ho un uncino solo. Mi sono svegliato l'altro giorno con questi dolori in tutto il corpo, schiena, dita, ho influenza. Sicuramente hai preso freddo, magari, ed è quello, capito? Saranno dolori influenzali, ma penso se te ne stai 2-3 giorni a casa al caldo già ti passa tutto, prenditi solo tachipirina, se ti sale la febbre basta. No, quello no, io non l'ho mai sofferto, non mi è mai venuta la febbre, che mi ricordo io, nemmeno da piccolo. Io mangio molte arancia e forse anche quello lì. Può essere, la vitamina C aiuta, capito? Però i dolori sono sintomi.